Buonasera e ben ritrovati in diretta dopo qualche settimana di registrate qui dagli studi di Radio Città Fujiko in Bologna. Chi vi parla come sempre Claudia Mighty Mau per la terza puntata speciale dedicata appunto alla terza giornata del festival NOS Primavera Sound. Per chi non lo conosce, si tratta della versione un po' ridotta del mastodontico, come amo dire, evento barcellonese, che invece a Porto esiste dal 2012. Nelle scorse settimane abbiamo quindi illustrato le prime due giornate, non suonando proprio tutti i nomi in cartellone, perché in diversi casi sono solo, insomma, diciamo dei DJ, quindi però per il resto abbiamo suonato veramente tutto. E come ho detto nelle altre puntate, ci sono i nomi piccoli, ci sono i nomi grandi, i cosiddetti headliner delle varie serate, ma noi, per non far torto a nessuno e soprattutto per non far torto ai nostri gusti personali, che magari darebbero, insomma, un ordine di grandezza diverso, usiamo l'alfabeto in ordine alfabetico, e quindi partiamo con un gruppo non molto conosciuto, perlomeno misconosciuto da me, ovvero Emil and the Sniffers. È una band punk, un quartetto che viene dall'Australia, e ci ascoltiamo Mats, Cat Be Muzzle, ovvero alcuni cani bastardi, ad alcuni cani bastardi non gli si può mettere la museruola. Quartetto guidato da Amy Taylor, hanno fatto degli EP, uno nel 2016, uno nel 2017, tipo 6 tracce, 12 minuti. Quattro tracce, meno di 7 minuti. Quindi, insomma, i pezzi punk sappiamo che sono compressi. E infatti anche questo pezzo supera di poco i 2 minuti e mezzo. Per questo pezzo, che è un singolo uscito l'anno scorso. Così finisce. C'è da dire che l'Australia è sempre un po' fuori dal tempo. Ma adesso, appunto, l'ordine alfabetico ci fa arrivare ai Big Thief. E infatti questa terza giornata è caratterizzata da molte band, molte cantanti e molte voci femminili della nuova scena indie rock folk americana. E una voce è senz'altro quella di Adrienne Lenker dei Big Thief. Nothing back turns blue, near, oh near, dying back. quartetto di Brooklyn, che proprio qualche giorno fa ha pubblicato terzo album con già voti altissimi, da addirittura un 9 da parte di Pitchfork. Dopo l'esordio nel 2016 con Masterpiece, poi una conferma l'anno dopo con Capacity, entrambi usciti per la Cyril Creek, adesso questo nuovo album invece esce per la 4AD, che se li accaparra tutti, insomma, i nomi migliori. L'album si chiama UFOF, ovvero il mio amico UFO. Tra l'altro Adrian Lenker ha fatto un disco solista, uscito l'anno scorso, Abyss Kiss, anche questo è molto apprezzato dalla critica. E quello che abbiamo ascoltato era appunto la title track UFOF, che è stata pubblicata in anticipazione dell'album. Ci abbiamo voluto aggiungere un'altra traccia dal titolo Strange. FM l'abbiamo già sentiti per una puntata dedicata a Mitski e poi nella puntata dedicata alle migliori canzoni del 2017 con Mythological Beauty. Per uno stile che viene definito appunto un indie folk, un songwriting spettrali, nudi ed intensi. Che in passato i loro album avevano parlato molto della natura, quindi del nostro pianeta, di ciò che è tangibile, invece questo album invece esplora la cosmologia, quello che è fuori da noi, quello che non è esplorato ma misterioso e assolutamente affascinante. Thank you. e abbiamo decisamente cambiato suono. Siamo arrivati a Bodica, ovvero Alex Bleek, un altro pseudonimo di Al Green, londinese, DJ producer attivo dal 2010, spesso in sodalizio con Joy Orbison, anche lui presente in questa terza giornata del NOS Primavera Sound 2019 di Porto, Parque da Cidade, cui stiamo parlando stasera, e anche, come spesso succede, proprietario della Non Plus Records, tra l'altro un'etichetta che, appunto, sbirciando il suo SoundCloud, ho visto che ha pubblicato l'ultima release di Allen Alien, ma anche Burial. All'inizio della sua carriera è stato abbastanza prolifico, appunto anche attraverso il Sunclaw Project, ovvero tutti questi EP singoli fatti in collaborazione con Joy Orbison. E Pearson Sound. Invece il pezzo che stiamo ascoltando, ovviamente un estratto, è Broken Wave, uscito nel febbraio 2018. Nella compilation dell'etichetta Counterchange Co-ops volume 2. Producer molto eclettico, a sue parole amante del suono unclean, vero, sporco, polveroso, nebbioso. Perché, insomma, come tutti i festival primaverili estivi, racchiudono tanti generi diversi, e c'è sempre la parte del clubbing, che è, insomma, una parte molto importante. E poi invece per la, diciamo, la programmazione diurna e serale, appunto, ho visto molti nomi, come dicevo, della scena indie rock, una nuova scena femminile americana che è abbastanza classica. Ci sono, appunto, Big Thief, poi ascolteremo anche Snail Mail, Lucy Dacus, purtroppo la sua compare Julian Baker suona solo a Barcellona, ma siamo arrivati a uno dei nomi più grandi in cartellone, ovvero a Erykah Badu. Che ho scoperto essere nata tipo 3 settimane dopo di me, nata a Dallas e al suo esordio nel 2000 con Mama's Gun, ha vinto il Grammy come Best R&B Album, poi nel 2003 Worldwide Underground e poi nel 2008 e 2010 New America Part 1 e Part 2, scritto Erykah, come è scritto il suo nome, ovvero con la Y, la K e la H, nome che ha cambiato lei, così. E poi dal 2010 diverse mixtapes e l'ultima pubblicazione ufficiale è appunto la mixtape del 2015, But You Can't Use My Phone, dove sono tutti pezzi a tema telefonico, e infatti contiene anche Cellular Device, un rework di Hotline Bling molto molto divertente, che infatti avevamo suonato anni fa insieme appunto alla versione originale di Drake. Artista molto potente e che insomma con la sua azioni ha anche creato insomma delle controversie, come per esempio nel 2010 per il video di Windows Seat girato a Dallas nel luogo dell'assassinio di Kennedy, lei che cammina piano piano, pieno giorno, sole, lei piano piano si spoglia nuda. E poi mi ricordo anche qualche anno fa che c'era un giornalista che stava facendo un servizio per un piccolo canale, non so, a New York, e lei passa dietro, fa delle facce buffe, cerca di baciarlo, lui la allontana, insomma finisce sempre. Ecco, poi sui giornali anche per i suoi, all'inizio per i suoi bellissimi foulard e poi per, invece adesso, questi cappelloni enormi, molto molto più grandi di quelli di Pharrell. E se non si era capito, il pezzo prima era l'intro della mixtape, ovvero Can't Use My Phone, Sweet, seguita invece dal singolo, ovvero Phone Down. I can make you put your phone down, and we cruise through the city. I can make you put your phone down. You ain't gon' text no one when you with me. I can make you put your phone down, so you can show me attention. And I'll cut mine off too. Boy, that I have when I listen. I can make you put your phone down. Baby, we don't need it. Every time you get a message, act like you don't see it. I can make you put your phone down. Tell me, do you copy? I can make you put your phone down. Boy, that ain't gonna stop me. I can make you put your phone down. E oltre alle nuove voci della scena statunitense più indie rock, c'è anche Tom Berlin. O quelle europee, non solo, insomma, già belle emerse come quella di Rosalia. Ci sono appunto delle altre donne forti come Erykah Badu, Nene Cherry, Kate Tempest e poi Tirza, e le ascolteremo tutte in questa ultima puntata speciale. Devo dire che tra i nomi scritti più in grande nella prima riga c'è un'altra donna, ma questa è proprio una questione di principio che io non passerò e non suonerò, anche perché ci ho avuto a che fare personalmente, di una sgradevolezza direi unica, ovvero Nina Kravitz. Cioè, quello che dicono di lei, che stronza, è vero, cioè non è misoginia, non è sessismo, cioè è proprio stronza. E passiamo invece ad un altro gruppo, invece proprio storico della scena indie rock, lo-fi, college rock, attiva dall'83, ovvero Guided by Voices. Questo primo breve pezzo che abbiamo ascoltato si chiamava Good Morning Sir, tratto dal primo dei due album già pubblicati nel 2019, ovvero Zeppelin Over China. E questo è un altro pezzo dello stesso disco, il singolo You on the Night. Dicevamo 1983, Dayton, Ohio, fondamentalmente il progetto di Robert Pollard più una line-up molto variabile, diciamo. Poi c'è quella classica, no? Dell'era 93-96, composta anche da Mitch Mitchell, Tobin Sprout, Jim Pollard, Kevin Fenner e Greg Demos. E i primi album proprio a tiratura super limitata, proprio solo per amici e parenti. Poi nel 92 si sono fatti conoscere fuori dalla loro città, dal loro stato. Flickering blossom over in slow motion. Spring 40 seasons, the focus out of reasons you have to hide. E questo proprio grazie al circuito delle College Rock Radio e anche da apprezzamenti ricevuti da persone cute, R.E.M., Breeders. E quindi nel 94 arriva il contratto con la Matador e quindi la musica diventa un lavoro fino al 2004. Poi Pollard continua la sua produzione, tanto che diciamo i suoi dischi sono, insomma, fanno parte, vengono considerati parte della discografia generale dei Guided by Voices. Puntuale come la morte, o meglio prima della morte, nel 2010 la prima reunion per un concerto per i 21 anni della Matador più un nuovo album. Poteva essere una cosa episodica? No, perché dal 2012 al 2014 hanno fatto 6 dischi. Penso che forse King Lizards come cavolo si chiamano arriveranno forse a questo numero di dischi, 30 album ormai a firma Guided by Voices. Però si separano ancora, seconda reunion del 2016, nuova lineup dal 2016, altri 6 album, di cui 2 già quest'anno. Infatti stiamo ascoltando un pezzo tratto dal secondo disco uscito il 26 aprile, ovvero Warp and Woof, cioè Woof ovvero Bau, infatti questo pezzo si chiama... My Dog Surprise. E la differenza è che è molto molto più lo-fi questo secondo disco, come potete sentire. Poi non parliamo solo di essere prolifici per album, ma questi due dischi contengono 1,32 pezzi e questo 24, con una media di 1 minuto e 20 per canzone. Femminile del indie rock, folk rock, acoustic rock statunitense è quella di Frances Quinlan, voce degli Hop Along. Progetto nato a Filadelfia nel 2004, all'inizio era un progetto acoustic freak folk solista di Frances Quinlan, il nome era Hop Along, virgola, Queen and Slays, che non sappiamo chi fosse. L'ultimo anno di high school esce il primo album nel 2005, Freshman Year, e lei dice: sì, ho suonato da sola per qualche anno, ma per necessità, perché non riuscivo, sembrava che non riuscissi a mettersi una band, e poi non volevo aspettare nessuno, volevo scrivere, volevo suonare. Poi invece nel 2008 si unisce il fratello Mark alla batteria e il bassista Tyler Long nel 2009. Il nome viene accorciato, da allora tre album, fino all'ultimo del 2018, Bark Your Head Off, Dog, ovvero abbaia fino a sgolarti, cane, tornano i cani, un 8 da parte di Pitchfork per questo disco, un disco strano, direi. Sono quasi, appunto, non ha una voce unica, Franz, sembra di sentire appunto 10 voci diverse. Time. does not matter now. The Fox in Motion dopo How Simple. È proprio un approccio fresco alla musica indie, è molto, molto particolare, molto curioso questo disco. A volte quasi fastidiosa la voce nelle toni alti. Forse una giornata molto più caratterizzata, vista la presenza appunto di tante band di questo genere, senza dimenticare i Low, rispetto magari invece alla serata del venerdì, una giornata di venerdì un po' strana, come ho avuto modo di dire. E quindi sicuramente per gli amanti del genere vogliono farsi una giornata, non c'è veramente di meglio. E adesso cambiamo suono con un pezzo che tutti conoscono, neanche se non sanno il nome, neanche se non sanno di chi è, ma la conoscono veramente tutti. Ebbene sì, questa è la versione originale di chi l'ha cantata, di chi l'ha scritta nel 1963, Georges Ben-Jor. Anche se poi è stata portata a successo 3 anni dopo da Sergio Mendes, che l'ha rifatta anche nel 2006 con i Black Eyed Peas. Ma questo è stato il primo singolo, il primo successo di Jorge Duilio Lima Menezes, 1942, Rio de Janeiro. Musica popolare brasileira, samba, tropicalia, bossa nova, funk. E questo è un altro di quei pezzi che non si può non conoscere, anche se non sai di chi è. E soprattutto se conosci solo la versione da trenino di Capodanno. País Tropical invece arriva nel 1969, quando appunto esplode il movimento Tropicalia. E poi ho scoperto che nel 76, nell'album Africa Brasil, c'è un pezzo, Taj Mahal, plagiato da Rod Stewart per fare, sempre lo stesso anno, Do You Think I'm Sexy, ed è vero. Poi nell'89 aggiunge a Georges Ben-Jor, scritto anche tutto attaccato Ben-Jor, c'è chi dice per ragioni numerologiche, perché infatti negli anni 70 ha fatto dei dischi con un profondo contenuto esoterico, e altri invece per ragioni di royalties, che si racconta che avevano dato i suoi soldi a George Benson. Mm. amore. E quindi, come è successo in anni passati, che il festival No Primavera Sound, ma anche la versione di Barcellona che ha ospitato i nomi storici della scena musicale brasiliana, anche quest'anno ci sarà Jorge Ben, come negli anni passati c'è stata Elsa Soares, come c'è stato Caetano Veloso. E adesso arriva un altro dei suoi pezzi storici, però Figlio Maraviglia, che praticamente, essendo lui grande tifoso del Flamengo, squadra di Rio, lui a cui ha dedicato molte canzoni, questo era dedicato appunto a un giocatore storico, Figlio Maraviglia, e questa parte qua che tutti conoscono è solo la fine, perché tutta la parte, maggior parte del pezzo, proprio Jorge Ben descrive un'azione famosa con passaggio, minuto del primo tempo, dribbling eccetera eccetera, di un gol meraviglioso fatto da Figlio Maraviglia. Gostamos de você. Filho Maravilha, mais um pra gente ver. Dopo appunto ho scoperto veramente un sacco di cose leggendo tutta la storia di Jorge Ben. E ho anche scoperto che poi, insomma, sono state questioni legali per l'uso del suo nome, a parte appunto il giocatore, dopo però hanno fatto pace. E adesso invece siamo arrivati al socio di Boddica, che ho nominato già prima, ovvero Joy Orbison, al secolo Peter O'Grady, anche lui londinese. E la sua scheda di Wikipedia, la prima riga dice da non confondersi con Roy Orbison. E mi chiedo, chissà se avranno slot consecutivi Joy Orbison e Boddica, che lui producer di House, Dubstep e UK Garage all'inizio, ovvero 2009, poi appunto il sodalizio con Al Green. E io credo di averli visti già tutti e due, club to club o qualcosa del genere. Insomma, O'Grady inizia a fare il DJ a 13 anni e, insomma, quando ha cominciato ad avere una ventina d'anni ha cominciato a produrre delle proprie tracce. Ma tra le sue influenze cita anche My Bloody Valentine e i Beach Boys. Il suo singolo d'esordio nel 2009, High Mingo, è stato un successo mondiale, insomma, nell'ambito del clubbing. E invece il pezzo che stiamo ascoltando adesso viene dalla sua ultima release del 2018, un EP dal titolo 81B, e questo è il pezzo conclusivo nonché omonimo. E adesso arriviamo appunto al nome che ho già nominato, magari non è conosciutissima, Kate Tempest. Ho avuto modo di vederla due volte, una volta diversi anni fa a Elita e poi invece un paio d'anni fa al Paris Decora. Kate Tempest, ovvero Kate Esther Calvert, fine 85, spoken word performer, poeta, recording artist più che cantante, scrittrice di libri e di opere teatrali, quindi novelist and playwright. I listen to her hips, I push my kisses to her lips. We move like we were born to move. The night is teeth. Bravissima, precocissima, già tra i grandi della poesia e della letteratura britannica, avendo ricevuto tanti riconoscimenti già. Her mouth sets free this captive. Come close to me. Free me. Let me untangle the madness that knots you. I drop to my knees and crawl across you. I tell you I've got you. It's fire smoke. So go on, give me 3 days. E tra lavori teatrali e libri di prosa e poesia, due album, 2014-2017, entrambi nominati al Mercury Prize. You take me to space. E poi nel 2018 è stata nominata Brit Awards come Best Female Solo Performer. Is home to rare gods. Mentre dal vivo sono in quattro con un batterista, poi synth e tastiere. E il 14 giugno uscirà il terzo album, The Book of Traps and Lessons, anticipato dal pezzo che stiamo ascoltando, Fire Smoke. E lo possiamo appunto annoverare anche appunto a quella nuova scena anglosassone che abbiamo molte volte citato, anche con nomi. You drop to your knees, you crawl across me, you lick your lips softly. Come King Cruel, e anche questo amore per suoni un po' retro che magari non ti aspetteresti dalle nuove generazioni, blues, soul, jazz. Makes us get on the wrong trains, walk the wrong way, make strangers smile greetings on Lewisham Way. I bathe in this fire, it warms without burning, compels without force, and it turns without turning the world. So please, you keep your purpose, your poise, and your journey. I'll be by the fire, thinking nothing I've learned can prepare me for everything else that needs learning. Is this how it feels to feel certain? 'Cause for so many years my love's been a burden. But now comes this fire to cleanse and restore us, to fuel us and calm us and push us. Un poema d'amore alla sua donna. E adesso invece passiamo a quello che è proprio l'ultimo nome in scaletta. Stiamo ascoltando Lena D'Agua, nome d'arte di Elena Maria de Jesus Aguas, classe 56, cantante portoghese che ha fatto molto molto successo negli anni 70 e 80, la prima voce femminile leader di un gruppo rock. Spero che l'esordio, no, la fine degli anni 70, nel 79. E quest'anno, tra poco, esce un nuovo album, Desalmadamente, da cui stiamo appunto ascoltando questo pezzo pop molto sgarzolino dal titolo Grande Festa. Una discografia molto intensa fino, diciamo, alla metà degli anni 90, poi ovviamente arrivano le compilation dei grandi successi, e adesso questo refresh grazie al sodalizio con un giovane musicista portoghese che suona con lo pseudonimo di Primeira Dama, ovvero First Lady. Ha pubblicato un album omonimo nel 2017, da cui ci ascoltiamo Rua das Flores. Quindi mi immagino un pubblico di giovani portoghesi che sicuramente sono cresciuti con queste canzoni, magari le ascoltavano i genitori o i nonni ormai. E questo sodalizio, che consiste appunto in una esibizione live di Lena D'Água più Primeira Dama con la banda Chita, ovvero Chita Records è un'etichetta portoghese, e diversi musicisti dell'etichetta accompagneranno questi due cantanti che rivisitano il reciproco repertorio. Rivisitano. Finisce Primeira Dama e arriviamo ai già annunciati Low, che con un disco dell'anno scorso, 2018, Double Negative, sono davvero riusciti a stupire. Un disco molto molto sperimentale, tanti suoni noise strani. Album dell'anno per Drowning Sound, per Uncut, per Music OMH, e altissime posizioni per molte altre testate. Infatti nella classifica Album of the Year, che aggrega, fa la media di tutte le liste di fine anno dei media specializzati, si è piazzato al settimo posto per questo trio, fondamentalmente composto dalla coppia nella musica e nella vita di Alan Sparrow e Mimi Parker dal 93, provenienti da Duluth nel Minnesota. E la cosa sempre curiosa che si dice di loro, sono di fede mormona, diciamo, sono un po' gli alfieri del cosiddetto slowcore, però pezzi veramente emotivamente molto pesanti, ma nel senso bello molto molto intensi. E per molto tempo al basso c'è stato, dal 94 al 2005, Zach Sally, ora c'è Steve Garrington. E per noi è stato Amore al quinto album, grazie a Micro della Spingo, ovvero nel 2001 con Things We Lost in the Fire, poi l'anno dopo con Trust. E quindi da Double Negative ascoltiamo due pezzi mixati insieme, o più che altro questo primo, Dancing in Blood, rimane in sottofondo anche durante la seconda traccia che abbiamo deciso di attaccarci, ma questa è Dancing in Blood. Questo disco avevamo già suonato in trasmissione Always Trying to Work It Out, perché era nella classifica delle migliori canzoni del 2018, un pezzo che non è nessuno dei quattro singoli tratti da quest'album, ma i due che ascoltiamo lo sono. Essendoci una lunga coda con questa nota un po' alta, ho provato a lasciarla su e ci sta molto bene con Disarray, che è il pezzo di chiusura dell'album. Curioso che ci sia stato nello stesso anno un altro pezzo bellissimo con lo stesso titolo di Disarray, ovvero quello dei Preoccupations. It graduated to the back of the bus. They say you let it in when you took the drive. coda di Dancing in Blood sotto raggiunge una tensione, quasi fosse la colonna sonora di qualche film. Ma invece poi la melodia di Disarray è rassicurante. Questo è un pezzo bellissimo e è l'ultimo singolo fuori album di Lucy Dacus. My Mother and I. Dacus, Virginia, 1995, cristiana, o perlomeno di educazione cristiana. Inizia a fare musica a 20 anni e esordisce nel 2016 con No Burden, lasciando gli studi di cinema all'università. Lo stesso anno l'album viene ristampato dalla Matador dopo che lei entra nella scuderia Matador e brucia tutte le tappe, nel senso che nello stesso anno suona Lollapalooza di Chicago, partecipa alla serie molto famosa Tiny Desk Concert della National Public Radio, insomma un esordio col botto e una conferma nel 2018 con Historian, e stesso anno in cui nasce Boy Genius, ovvero il sodalizio con Julian Baker e Phoebe Bridgers, e la pubblicazione del relativo omonimo EP, anche questo super apprezzato da tutti. E dicevo, peccato che a Barcellona c'è anche Julian. Nel 2019 in realtà c'è stato già un primo pezzo pubblicato, era San Valentino, e ha fatto una cover di La Vie en Rose con un ritmo che mi ricorda molto Such Great Heights dei Postal Service. E come anche per Big Thief avevamo suonato un suo pezzo, il singolo del primo disco I Don't Wanna Be Funny Anymore, nella puntata dedicata a Mitski, appunto facendo parte di questa nuova scena di femmine americane. E poi Night Shift, nella puntata dedicata alle migliori canzoni del 2018. E la sua scheda di Wikipedia dice, riporta una cosa molto carina riguardo al suo rapporto di amicizia con Julian Baker, che incide anche lei per la Matador, e dice: lei ha 20 anni, io 21, siamo state educate, cresciute, allevate alla religione cristiana, lei è lesbica, io sono più o meno queer, e abbiamo quindi un sacco di storie passate in comune, di contesti simili. Veniamo tutte e due da città del sud degli Stati Uniti, abbiamo lo stesso interesse per gli esseri umani e le stesse idee sulle ragioni che ti spingono a fare arte. Una di quelle cose cui tu ti immagini di parlare per un paio d'ore e invece finisci per parlare per 12 ore. For grande sospiro e l'alfabeto ci procura un altro piccolo shock. Siamo passati ai Mod Selector Live. Ovvero non faranno DJ set ma esibizione live, soprattutto perché finalmente hanno fatto un disco nuovo a loro firma e basta, ovvero Wells. Gernot Bronsert e Sebastian Zari. Who says study will get you work? Who says school will get you class? Who said that job will get you the cash? Who said that loan will save your ass? E questo qui è il singolo, uno dei due singoli già tratti dall'album, ovvero Who, che vede la partecipazione di Tommy Cash, il pazzo rapper estone che abbiamo avuto modo di ascoltare nella prima puntata, quindi si esibirà il primo giorno del festival. Who says that life is not there? Wearing brands is having style. Who said that original is not fake? Who said that those pills will get you high? Un sodalizio, quello dei Mod Selector, nato nel 92 quando si facevano chiamare Fundamental Knowledge, poi dal 96 Mod Selector. Che è il nome di una funzione di una console di effetti della Roland. Poi nel 2000 conoscono Ellen Allen e quindi entrano nella B-Pitch Control. Infatti una volta che li ho visti al Maria Am Osbahnhof a Berlino, suonavano insieme, ovvero no, loro suonavano e poi lì al lato della console c'era Ellen e pippavano tranquillamente. Poi appunto l'esordio nel 2005 con Hello Mom, così io li ho conosciuti, non so perché, ma forse si poteva ascoltare il CD da Saturn appunto a Berlino, ho comprato il CD perché forse mi incuriosiva la copertina, non lo so. Comunque grande amore per la loro tamarraggine. Poi nel 2007 Happy Birthday, già con featuring di Apparat, Thom Yorke e Paul Smith dei Maximo Park. E poi nel 2009 nasce il progetto Moderat, forse questo pezzo si richiama quelle atmosfere, il pezzo di chiusura di Wells, ovvero Wake Me Up When It's Over. E quindi primo album Moderat, il successo planetario di A New Error, negli anni è cresciuto, all'inizio eravamo in pochi, solo noi e Albano, chissà sa, capisce. Poi la creazione della loro etichetta, la Monkey Town, un album omonimo nel 2011 e poi dal 2010 al 2018 le compilation Mod Selection volume 1, 2, 3, 4, poi altri due dischi come Moderat, 2 numero romano 2013, 3 nel 2016, si capisce che però erano un po' stufi, devo dire. E infatti anche la qualità dei dischi, insomma, anche se i live veramente spettacolari, anche grazie alle grafiche delle loro copertine e poi dei loro visual fatti da Sirius Mo, anche lui musicista elettronico con cui a volte si esibiscono, come nel caso di Spring Attitude di qualche anno fa. E c'è sempre appunto questa vena di follia che appunto nei loro dischi da solo possono esprimere completamente. E io racconto sempre questo aneddoto. C'eravamo io, Mod Selector e John Talabot in una 500 XL, l'avevo fatto da driver per il robot, e uno dei due Mod Selector, ovvero quello sempre col capo coperto in quanto non ha capelli, penso che sia Gernot, ha detto un sacco di pettegolezzi su dei DJ della scena berlinese che tutti conosciamo, ma non li riferiremo. Sai, gli autisti stanno lì come se non ci fossero, e chi è in macchina parla liberamente. E se le copertine, le grafiche di Sirius Mo per i Moderat, singoli, album e visual sono bellissime, ricordando un po' lo stile di Burns, la copertina di questo Wells è veramente orrenda. Abbiamo fatto un edit di questo pezzo e adesso siamo passati a un personaggio che anche lui ha avuto modo di chiacchierarci un paio di volte, una volta al Festival Moderno e un'altra volta quando è stato ospite qui a Bologna al Cassero della Roboterie, una persona squisita, ovvero Mickey Blanco. Take some Xans to calm down. Now I'm feeling dead. Short change that grand. Big girls and socialites, white powder in their hands. Getting twisted, they hadn't lifted, they asking about them Xans. Trouble making these baby faces, I'm blended with some man. Asking me about poetry and I wanna leave but I can't. Body high like a thousand miles up in the sky. Michael David Quattlebaum Jr., nato nell'86 in Orange County e poi cresciuto nella North Carolina, diciamo dei posti che non proprio queer friendly, perché è un rapper, un performance artist, poeta e attivista super queer, transgender, multigender. Aveva anche pensato di farsi le classiche operazioni di riassegnazione sesso, poi ha detto no. Performance travolgenti dove, ok, non potrà farlo al NOS Primavera Sound, ma di solito lui sta un secondo sul palco e poi scende in mezzo alla gente che si mette in cerchio attorno a lui. E il pezzo che stiamo ascoltando è High School Never Ends, dal suo primo album omonimo, Mickey, anzi del 2016, prodotto da Woodkid. Un nuovo album all'orizzonte annunciato per il 2019 dal titolo Stay Close to Music, Stay Close to God, ma ancora non c'è niente. Treating me like you don't need me, I guess it ain't the old news. So hazy, real slim, shady, I can't find my shoes. I can't find my shoes, I can't find my shoes, shit. Tra l'altro ha annunciato nello scorso novembre l'uscita di questo nuovo disco, ha anche annunciato la partecipazione al suo disco di Anoni, Kelsey Lou, Jamila Woods, Devendra Banhart, Jonsi, dei Sigur Rós. Ecco, questo credo che sia proprio Woodkid. L'ultimo pezzo in cui ha partecipato è un pezzo di Brooke Candy, My Sex, nel 2018, ma noi appunto volevamo mettere un pezzo suo proprio suo. Per un artista che viene proprio considerato un pioniere della scena queer hip hop o hip hop queer. scappato di casa a 16 anni, prima andato a New York, poi in California, poi ha vinto una borsa di studio per la School of the Art Institute of Chicago, l'ha mollata dopo 2 semestri. E ha pubblicato un volume di poesie nel 2011, poi primo EP nel 2012 e altri diversi EP e mixtapes fino appunto al primo album nel 2016, Mickey. E anche una cosa non secondaria, aver detto pubblicamente di essere sieropositivo, pensando anche che questo gli pregiudicasse la sua carriera, invece non è stato assolutamente così. E quindi anche un lavoro di awareness riguardo alla questione. E come ho detto prima, un'altra bella donna tosta della scena musicale è quella che noi chiamiamo affettuosamente Nena Ciliegia, ovvero Nene Cherry. E partiamo con il pezzo che l'ha fatta conoscere universalmente, ovvero il duetto con Yusun Dur del 94, 7 Seconds. Nene Marianne Carlsson, nata a Stoccolma nel 64, essendo svedese, di madre svedese e di padre della Sierra Leone, cantautrice, rapper, occasionalmente DJ and broadcaster, ovvero speaker radiofonica, figlia di una pittrice e artista tessile e appunto musicista della Sierra Leone, figlio di un capo tribale che era andato in Svezia per studiare ingegneria. Hanno divorziato molto presto e subito dopo c'è stato il matrimonio con il musicista jazz americano Don Cherry, che appunto ha dato il nome a Nene e l'ha allevata praticamente dalla nascita. E nei primi anni 70 appunto la famiglia si trasferisce negli Stati Uniti, ma a 14 anni Nene, siamo nel 78, molla la scuola e se ne va a Londra. Londra che è nel pieno della rivoluzione punk, infatti viveva con Harry Up delle Slits in uno squat, ha suonato in tanti gruppi punk, facendo appunto anche la DJ di musica rap, che era proprio il primissimo rap nelle stazioni pirata di quell'epoca. E poi debutto con l'album dell'89 Raw Like Sushi, un grande successo, il primo singolo Buffalo Stance alla vetta delle classifiche inglesi e americane, poi appunto parte della scena di Bristol, arrangiatrice anche di Blue Lines, The Massive Attack, che hanno partecipato anche al suo primo album, e appunto tutto il mondo l'ha conosciuta grazie a 7 Seconds, possiamo dire. I'm a member of shattered illusions, and am I needless to say another song facing nothing new? That love is big in every land, every nation seeks its friends in France and Italy, and all across the seven seas. And have they to Italy? Questo pezzo è singolo tratto dall'ultimo album del 2018, Broken Politics, si chiama Kong. Burn my head up, steal my world, will always be a little risk worth taking. poi anche decine di featuring e collaborazioni con altri artisti, la creazione di una sua band dal nome Circus, un album con un gruppo jazz sperimentale svedese, The Thing. Dopo il 96 i dischi a suo nome arrivano appunto nel 2014, Blank Project, prodotto da Kieran Ebden, ovvero Fortet, e poi questo ultimo nel 2018 che ha, riporto la foto di copertina scattata da Wolfgang Tillmans, è stato proprio per il tour di Blank Project che ha suonato al Bolognetti Rocks, mi hanno detto è stato un concerto fantastico, per un album Blank Project che conteneva anche un pezzo con Robin che non ho ascoltato. Eh sì, dice proprio Italy. Un album che ha avuto un voto di media di oltre l'8, scritto fondamentalmente da lei, da suo marito, musicista, produttore, e da Fortet. Un album che parla dell'attuale situazione politica e lei ha dichiarato: è difficile, è un'epoca buia, è difficile non prendere ispirazione dalle cose che stanno succedendo, ma anche se sento rabbia, dolore e tristezza, sono anche un po' costretta ad avere un po' di positività. E in una intervista ha detto: mi piace scrivere da una prospettiva personale e in quest'epoca è molto importante trovare la propria voce. La gente è stata lasciata incompresa, fraintesa, disillusa. Io che cazzo posso fare? Forse la politica inizia nella tua cameretta, camera da letto, o nella tua casa, una forma di attivismo. E quindi l'album Nene Cherry è riguardo tutte queste cose, sentirsi rotti, spezzati, delusi e tristi, ma essere perseveranti. E ritorna il buon umore con questo pezzo delizioso che stiamo ascoltando in sottofondo. Adesso lo ascoltiamo bene. Quero começar, mas quero chegar no fim. Eu tô pegando leve, tentando descansar. Meu nível de estresse ainda vai me matar. Se a vida vai. Questo pezzo si chiama Pegando Leve, ovvero Take It Easy, con te ci vado piano, di un trio di São Paulo che si chiama Oterno, appunto. C'è sempre appunto qualche gruppo brasiliano, sia storico, sono stati anche Os Mutantes e i grandi cantanti che abbiamo nominato prima, ma anche band più giovani. Questo gruppo nato nel 2009 appunto a São Paulo, primo album nel 2012 e l'ultimo invece uscito il 23 aprile, si chiama Atrás Alem. Eu já cheguei no fim, recomecei e aqui estou eu, no fim de novo. Quero me encontrar, mas quero deixar. Questa canzone è molto delicata e romantica, ma anche il resto delle canzoni dell'album sono canzoni super classiche, soft, tipo orchestral pop, baroque pop più che rock. E anche qui ritorna Devendra Banhart, che ha partecipato ad un pezzo insieme a Shintaro Sakamoto, leader della band psych rock giapponese attiva soprattutto negli anni 90, Yura Yura Teikoku. descansar. Meu nível de estresse ainda vai me matar. Se a vida vai depressa, com pressa ainda mais, eu tô pegando leve. Hoje não vou trabalhare. Anche per quest'album, uno di quei casi in cui l'aspetto grafico è importante, infatti a Tras Alem è scritto con minore, sì, minore, a Tras barra Alem maggiore o terno. Me da miedo quando sale, sonriendo pa' la calle. Porque todo pueden ver los hoyuelitos que te salen. Y el aire cuando pasa por levantarte el cabello y el oro que te viste por amor. Rosalía Vila Tobella. Y el cielo de la luna que tú quieras mirarlo. Está de la dintorni di Barcelona nel 93 è nata. Cantante e attrice. Nel 2018 l'artista spagnola con più Grammy Latino per ricevuti per un unico lavoro, ovvero il suo debutto uscito a novembre, El Mal Querer. Era stato anticipato a fine maggio dall'uscita del primo singolo Malamente, famosissimo. Invece questo bellissimo pezzo che stiamo ascoltando è Pienso in Tu Mirà, secondo singolo. Nuovo flamenco. E forse una sovraesposizione che ho denunciato la scorsa puntata, perché ho fatto un pezzo con Balvin veramente brutto. Anche ovviamente ballerina di flamenco, flamenco nuovo. Molto attenta all'immagine, infatti molti singoli, molti video. Ovviamente abbiamo sentito Malamente tra le migliori canzoni del 2018. Abbiamo mixato un altro singolo, l'ultimo, uscito a gennaio, De Aquinos e Sales, il pezzo più strano, con questi rombi di motore, questo sgommato, un pezzo che potrebbe essere stato prodotto da Sophie. Caramelo, también tengo. è il Malquerer, secondo lavoro dopo Los Angeles 2017. Ogni canzone seguita da come un indice di un libro, capitolo primo fino a capitolo 11 con relativo titolo, perché è un concept album ispirato da una novella anonima in lingua occitana del XIII secolo intitolato Flamenca. Questo è ancora un altro pezzo di questo bellissimo disco, Baghdad, anche questo pubblicato come singolo. Dicevamo Flamenca, scritto dopo il 1287 da un trovatore sconosciuto. Considerato il prototipo di una novella di amor cortese di cui è rimasto solo un manoscritto conservato nella biblioteca di Carcassonne. Classico triangolo amoroso, marito, moglie e amante. Il marito è Archambault, signore della città di Bourbon d'Archambault. Sua moglie flamenca e l'amante, un giovane cavaliere chiamato Guillaume. Questo pezzo mi fa pensare a Annie Lennox. Penso che ci sarà un'aspettativa incredibile per l'esibizione di Rosalia. Sfuma necessariamente perché l'ordine alfabetico ci porta appunto a uno dei nomi, l'ho ripetuto 10 volte, della nuova scena indie rock che trae ispirazione proprio dai suoni più classici. Però come mi sono appuntata, classico indie folk, ma quando è fatto bene è un balsamo per il cuore, e lei è Snail Mail. Lindsay Jordan, che quando suonerà avrà ancora 19 anni perché ne compie 20 il 16 giugno. E che ha pubblicato il suo primo album quando ne aveva ancora 17, ovvero inizio di giugno del 2018, era Lush. È Lush. Ma ha iniziato a suonare molto molto giovane nel 2015, ha già pubblicato un EP nel 2016 e noi in trasmissione l'abbiamo già ascoltata due volte, una con Pristine, uno dei singoli, nella puntata delle migliori canzoni dell'anno del 2018, ma all'inizio di dicembre invece nella puntata dedicata a Any Other, che diciamo che appunto a livello di età e stile e ispirazioni non mi ricordo se Adele Negro ha proprio nominato anche Snail Mail tra i suoi gruppi preferiti. E invece il pezzo che abbiamo appena sentito, Let's Find An Out, è un altro singolo tratto dal disco a cui ci abbiamo voluto aggiungere un altro pezzo dell'album, Full Control. Quindi la creatura di Lindsay Jordan è supportata, quindi diventa band, diventa Snail Mail, che sarebbe posta lumaca, è proprio il termine usato comunemente in America per parlare del, per definire la posta, quella che te la porta il postino a casa, posta veloce come una lumaca. E invece insieme a lei altri quattro musicisti per portare sul palco questo suono così anni 90. E nei giorni precedenti del festival ci sarà una delle sue muse ispiratrici, Liz Phair, come anche tra le sue ispirazioni c'è Cat Power e Fiona Apple. A loro volta appunto si dice, ho detto, che non sarebbero potute esistere se non ci fosse stata Liz Phair, ma anche influenze dichiarate, quella dei suoni Cute, dei Cranberries, dei Pavement, dei Velvet. E addirittura Rolling Stone, nella sua recensione, ha definito Lindsay Jordan e la sua musica il lavoro di un indie rock prodigy. E siamo arrivati ad un artista che ha fatto uno dei dischi più belli del 2018, ovvero Devotion. In trasmissione l'abbiamo ascoltata molte volte nella puntata dedicata a Club to Club, dove non l'abbiamo potuta vedere perché era la giornata inaugurale e non c'eravamo, ma poi l'abbiamo sentita anche nella puntata dedicata a Neil Ferriagna. Si tratta di Tirza. About the time we were together, and I thought that I would call you, but I never could do it. Per un disco che abbiamo detto diverse volte è stato composto insieme a Mika Levi, amiche da tanto tempo. Lei, Tears, aveva già iniziato a fare musica nel 2013, poi ha lasciato perdere per studiare, credo, una scuola di design di moda. E poi ha ripreso a fare musica e ha fatto molto bene. E abbiamo deciso di thank you. di riascoltare il mix che abbiamo fatto dei pezzi che ci erano piaciuti di più da Devotion, ovvero Do You Know, poi Gladly, poi Holding On e poi Guilty. You look at me, I could be away from here with no one, just you. What I want is you. I love you. Gladly, gladly, gladly. Perché a 13 anni Tirza Mustin, suo nome, aveva vinto una borsa di studio per la Purcell School for Young Musicians a Watford, a nord di Londra, e studiava arpa. Questo è il pezzo proprio super Mika Levi, Mika Chu and the Shapes o whatever. E appunto, frequentando la scuola, è diventata amica di Mika Levi, che invece lì studiava violino, viola e composizione. Però appunto alla fine della scuola è andata a studiare al London College of Fashion, mentre invece poi Mika Levi è andata avanti con la sua carriera. Finisce questo mix di quattro pezzi di Devotion, di Tirza. E passiamo un altro dei nomi che avevo detto prima, cantautrice folk americana, anche lei incide per la Saddle Creek. Non molto conosciuta ai più, Sarah Beth Tomberlin. Anche lei, insomma, campagnola di Louisville, Kentucky, ma nata a Jacksonville in Florida, cresciuta in una famiglia battista, siamo ancora lì. A 16 anni finisce l'high school e va al college per un periodo breve, 16 anni, e poi molla la scuola perché comincia a fare musica, a scrivere canzoni per il suo primo album, molto bello, si chiama At Weddings. E questo questo mi pare che sia, sì, il primo pezzo, Any Other Way. Potrebbe essere una daughter americana. Non era relativamente a Snail Mail, ma a Tomberlin che ho scritto. Sì, l'indie folk classico, ma quando fatto bene ti scioglie. Mi ricordo un po' Iron and Wine, l'epoca d'oro lì. Tante città, tanti trasferimenti, perché non solo famiglia Battista, ma figlia di un pastore. Studi di piano da piccola, ma autodidatta nella chitarra. Chitarra regalata dai genitori, e poi alla fine la famiglia si stabilisce nell'Illinois rurale, siamo sempre lì. E quindi anche dei limiti riguardo a musica mondana, secular, quindi non religiosa, poteva ascoltare. Come succede spesso, homeschooling, quindi non frequentare scuole, ma ricevere un'educazione in casa, di solito da parte dei propri genitori. Ecco perché ha finito l'high school a 16 anni. Questo è un altro pezzo molto bello, tratto da At Weddings, un po' più strano per questo suono. Si chiama Self Help. Per un album prodotto da Owen Pallett, che esplora temi di isolamento e young adulthood, quindi quella fascia d'età tra la, non so, tra i 18 e i 23, chissà. Cambiamo suono, gli strumenti sono sempre quelli, basso, chitarra, batteria, ma usate più stile post-punk. da questo quintetto svedese di Stoccolmo, ovvero Viagra Boys. Basketball, wiener dog, short shorts, cigarette, surfboard, ping pong, rugby ball. Un elenco di sport per un pezzo che si chiama Sports. Post-punk, ma anche comedy rock. Infatti c'è un pezzo di meno di 2 minuti che parla di cani, un cane che vince un concorso o qualcosa. Punk blues, a volte c'è, cioè il primo pezzo sembra appunto un giovane Nick Cave. Sebastian Murphy, nome non svedese, ma questo spiegherebbe anche la padronanza, la pronuncia e la complessità anche di altri testi che ho sentito. Tra l'altro hanno anche suonato al Freak Out qualche tempo fa. Band nata nel 2015 dalla fusione di membri che suonavano in altri 3 gruppi, un paio di EP, uno nel 2016, uno nel 2017 e poi nel 2018 Street Worms. Molto umor nero, satira. Non so perché, per lo stile e per il nome di questo pezzo ho pensato ai Parquet Courts. E stanno bene insieme. E siamo arrivati all'ultimo pezzo di questo episodio, terzo episodio speciale dedicato alla terza giornata del NOS Primavera Sound. Ricordiamo il sito nosprimaverasound.com, in quanto da lì poi si può accedere anche poi al sito invece del Festival Madre, ovvero quello di Barcellona. E l'ordine alfabetico ci porta alla Y di Eve Tumor. Safe in the Hands of Love, anche questo bellissimo e acclamato disco del 2018. L'abbiamo ascoltato appunto Club to Club, migliori canzoni dell'anno, 2 volte nelle 2 puntate dedicate alle migliori canzoni dell'anno, in quanto c'erano sia Noid che Lifetime, che avevamo messo mixate insieme nella puntata dedicata a Club to Club. Questo invece è un altro bellissimo pezzo singolo tratto dall'album Licking an Orchid. Sean Bowie, nome d'arte If Tumor, musica sperimentale all'inizio più elettronica, nata a Miami e attualmente residente a Torino. cresciuto anche lui nel Tennessee, dove ha cominciato a far musica a 17 anni per scappare da un contesto super conservatore, arido, tra l'altro molto gay, molto flamboyant, molto iconoclasta, trasgressivo, appunto, forse un termine molte volte usato male, ma nel suo caso ci sta. La cosa interessante è che è Yves Dumour full band, perché infatti a Torino l'abbiamo visto con le sue basi e solo lui. Un debutto con Serpent Music nel 2016, e infatti avevamo già passato un suo pezzo perché aveva già suonato a Club to Club. E poi nel 2017 la firma per la Warp Records. Album che appunto è stato lodato da tutta la critica specializzata, molto molto bello, molto complesso, molto originale, molto sorprendente, tant'è che il recensore di Pitchfork dice quest'album dwarfs, ovvero nanizza, ovvero riduce al minimo, rimpicciolisce tutto quello che l'artista ha fatto prima da adesso, dicendo che praticamente il lavoro attuale è enorme, monumentale rispetto a quello che ha fatto prima, un salto audace e disorientante. Nos Primavera Sound Festival 2019, 6, 7, 8 giugno, Parque da Cidade, Porto, Portugal. Ciao, da Claudia Maitimao.